benvenuti a questa nuova puntata della rubrica Alla radice del problema. Oggi parleremo di futuro dell'Italia, dell'agenda Giavazzi e delle ragioni liberali che animano il confronto politico preelettorale. È molto facile dire e autoproclamarsi liberale a parole, ma non nei fatti. Un dato importante è che la politica italiana vive momenti di passione dove l'incertezza e la confusione hanno fatto nascere movimenti ibridi, dove nei due poli si schierano comunisti e neofascisti, dove tutti parlano di riforme liberali, ma in realtà nessuno le attua, o peggio ancora, succede che il leader di una delle due coalizioni, dell'Unione in questo caso, andando al congresso della CGIL, congresso che peraltro su cui peraltro andrebbero spese alcune parole, non certo di elogio, andando al congresso appoggia la politica sindacale, di fatto appoggia anche l'abrogazione della legge Biagi, quella che per la sinistra è più estrema e la nemica principale di giovani e del lavoro. In realtà la legge Biagi è una buona legge, ma è incompleta, quindi più che abrogare bisognerebbe parlare di completare. Nessuno dei due schieramenti ancora ha preso in seria considerazione l'agenda Giavazzi, i 5 punti per rilanciare l'Italia, o almeno per provare a rilanciare l'Italia. Ovviamente sarebbe un bene prendere come base di partenza i 5 punti dell'agenda, che credo si sarebbero integrati tranquillamente nei due programmi, ovvero nelle 281 pagine gialle dell'Unione o le 20 paginette programmatiche vecchie e ibernate della CDL. Nessuno ovviamente prenderà in considerazione l'agenda Giavazzi, però la politica da destra a sinistra si dichiara liberale e riformista. A sinistra sono talmente liberali che c'è chi parla di blindare il mercato italiano da attacchi esterni. La performance francese riguardo all'acquisizione di Enel, della Suez, è testimonianza proprio seria e drammatica di come l'UE rischi di chiudersi ancora di più e di rimanere sempre più isolata ed economicamente a terra. Bene, non riesco davvero a capacitarmi come la rosa nel pugno, gli amici della rosa nel pugno, potranno formare un qualsivoglia governo con gente che per il neoprotezionismo, per l'antiatlantismo, antiamericanismo, antisemitismo, che vuole seguire Germania e Francia come se ancora costituissero l'asse di ferro su cui basare l'economia europea, che vuole abrogare la legge Biagi, poi ci sono i no-TAV e tanto altro ancora. Il futuro dell'Italia è incerto in questo momento, quello dell'Europa non è da meno, i rapporti con gli USA, per quanto possono dare fastidio a qualcuno, sono importanti, come è importante liberalizzare quanto più i servizi e soprattutto il mercato intereuropeo. Ricette queste applicabili, ricette possibili, ma solo da governi realmente aperti a riformare il sistema italiano, costruire basi per politiche liberali e riformatrici, cercando di non neostatalizzare o nazionalizzare le imprese, ma proponendo invece delle innovazioni tecnologiche che passano ovviamente con il finanziare in maniera massiccia il campo della ricerca scientifica e tecnologica, cosa che in questo momento non avviene. Per finire, è inutile poi parlare dei PACS. Chi ne prende le parti è consapevole che a destra quanto a sinistra le strade sono più che chiuse. È bene insistere, ma non millantare ciò che molto probabilmente non si otterrà mai, o perlomeno non si otterrà subito. Resta un dato di fatto che la politica liberale radicale poi deve scavare un solco, come in effetti sta facendo tra i due schieramenti. Far emergere le bugie di chi spaccia per liberale, far emergere i problemi a cui si potrebbe andare incontro se le cose rimanessero così come sono, o peggio, se dovesse vincere la linea ultragarantista e statalista che in ogni caso hanno all'interno dei due poli, che ci sono in ogni caso all'interno dei due poli. I 5 punti dell'agenda Giavazzi aspettano delle risposte. Da noi giovani parte con entusiasmo quella voglia di rinnovamento e non di riciclo del vecchio, fattore questo che invece invade e pervade la politica italiana. Per una rinascita italiana esistono pochi mezzi a disposizione, vi è solo l'intelligenza, la volontà e l'entusiasmo, virtù che appartengono sicuramente al nostro mondo, cioè al mondo liberale. Bene, da Nilo Di Stefano è tutto, un arrivederci alla prossima puntata di Alla radice del problema.